Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. C'è molta gente che è in pensiero per il Partito Democratico. In che senso? È affezionata all'idea che si consolidi, che abbia un futuro questo partito, che è nato con grandi speranze, tanta gente al voto, le primarie, 3 milioni e mezzo, la leadership di Veltroni, modernizziamo tutto, un nuovo stile nei rapporti tra opposizione e maggioranza, chiunque sia al governo e chiunque sia all'opposizione, eccetera, eccetera, eccetera. Basta con le vecchie ideologie del XX secolo, superiamo, creiamo una nuova cultura politica, facciamo all'americana, Partito Democratico, non Socialista Democratico, non Cattolico Democratico, non Democristiano, Cristiano Democratico, Partito Democratico senza ulteriori aggettivi e qualificazioni. Questo partito, che aveva il 33% e rotti, adesso il 26% e rotti alle europee, ma insomma comunque che è consistente, che è il primo partito e direi anche l'unico a rappresentare l'opposizione in Parlamento, a parte il gruppetto di Di Pietro, questo partito è in pericolo. Perché è in pericolo? È in pericolo perché si sta avviando a una specie di congresso, perché non è un congresso tradizionale come quelli che hanno sempre fatto i partiti politici nella Prima Repubblica, è un congresso innovativo a partire dalle sue regole, ma si sta avviando a questo congresso con uno schema che sembrerebbe un po' vecchio, cioè molta gente che è affezionata al Partito Democratico dice: ma adesso ci date di nuovo un conflitto fra D'Alema e Veltroni, e gli vengono i capelli ritti in testa, si arrabbiano, dice: è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa zuppa. Perché? Perché, come sapete, quello che è successo di recente è che Franceschini, che è stato eletto dopo le dimissioni di Veltroni segretario dall'Assemblea Nazionale, si candida, e ad appoggiarlo c'è Veltroni con tutta una tiritera, una sfilza anche importante, autorevole, di leader del partito, compreso Fassino. E contro di lui c'è Bersani appoggiato da D'Alema, da Letta, Enrico Letta, che è poi il pupillo dei prodiani, e probabilmente sarà appoggiato anche da Rosi Bindi, a quanto risulta. A me, dunque, uno scontro un po' tradizionale, su linee interne, cioè che non si apre alla società, non crea una novità politica, non crea una novità istituzionale, non dà carburante, nutrimento per un partito, diciamo, che vuole afferrare il futuro. Sto dicendo delle cose troppo pessimistiche, forse, però insomma si riscontrano nei commenti di stampa, si riscontrano nella chiacchiera politica che riguarda il Partito Democratico. Ne parleremo con Chiara Geloni, vice direttore di Europa, con Alessandra Sardoni, inviato del telegiornale della Sette e autrice del volume Il fantasma del leader, che è stato appena pubblicato, fresco, fresco e odoroso di stampa, dall'editore Marsilio. Ed è un libro con incorporato scoop, poi ce lo racconterà la stessa Sardoni, riguardo all'epoca del famoso staff di D'Alema. È un libro storico sulla classe dirigente del PD, e prima che del PD, dei DS, insomma, e della sinistra, del centro-sinistra. Ne parleremo con Roberto Gualtieri, eurodeputato del Partito Democratico, docente di storia contemporanea, appena eletto a Strasburgo, e con Ivan Scalfarotto, che invece a Strasburgo non è stato eletto ed è un esponente del PD che persiste, insiste e ha una sua ostinazione molto simpatica, nel senso che è minoritario, aggrega i giovani e gli speranzosi, gli ultrafuturisti, diciamo, del PD, le prende, perché poi dominano sempre gli apparati, insomma la gente che fa politica professionalmente, ma non desiste. E questa è una cosa che mi è molto simpatica e molto cara, perché chi non desiste ha delle qualità in più di chi desiste. Bene, onorevole Gualtieri, il 30 giugno Bersani inaugura 600 metri quadrati in piazza Santi Apostoli, la vecchia sede dell'Ulivo di Prodi, e diventa la sede di Bersani per il suo comitato elettorale e per la sua candidatura a segretario del PD. Tre giorni dopo, il 2 luglio, tra l'altro la data del Palio di Siena, non so se ha azzeccata la la data, Veltroni convoca al cinema Capranica i suoi sono molti, eccetera. Lui dice: non ricomincerò a fare politica nella vecchia maniera, insomma fa il kingmaker, e per la candidatura Franceschini. Insomma, molti dicono che è uno show già visto. Ma io non sono d'accordo, perché premesso che insomma Franceschini non è ancora ufficialmente candidato, e quindi aspetteremo dopo i ballottaggi per vedere, ma se andrà come lei ha ipotizzato, io penso che sarebbe invece una novità assoluta, cioè sarebbe la prima volta che si fa un congresso vero, cioè un congresso in cui si entra senza sapere come si esce, e questo credo sia una novità molto importante e positiva, perché senza un congresso vero non si dà un partito democratico. Perché lei dice le forze si equivalgono e quindi ci sarà vero pathos per capire chi vince e chi perde. Ma questo, insomma, è il concetto. Si equivalgono, poi vedremo. Comunque sicuramente non è un congresso più vero della quello delle elezioni che hanno portato al precedente segretario, in cui c'era un vastissimo accordo e quindi, come dire, l'esito era largamente scontato. Questo è un congresso significativo in cui penso si confronteranno delle piattaforme politiche aperte al paese, almeno quella che Bersani ha cominciato a prospettare mi sembra una piattaforma politica che innovativa, che risponde, io penso, al progetto originario del Partito Democratico, che Bene. Non nasce con l'idea del partito all'americana, è precedente. Bene. E non è un caso infatti che il comitato elettorale di Bersani sia nella sede dell'Ulivo, sì. Nasce lì il Partito Democratico. Ah, quindi non c'è, secondo lei, il tono e il timbro di una scelta all'americana nel Partito Democratico? Questo no, gliel'ha dato stata, poi Veltroni stata, con la sua ipotesi, una delle ipotesi, ma non era l'unica e non era soprattutto, io penso, nell'intenzione originaria del progetto dell'Ulivo. Nell'intenzione originaria invece è il partito del centro-sinistra. Scalfarotto, lei è d'accordo sul fatto che le cose tutto sommato non vanno poi così male? Ci sarà un congresso vero, con una sua sostanza, con un conflitto reale, e che poi alla fine, insomma, tutti questi discorsi sulla forma del Partito dell'Ulivo, i discorsi che faccio sempre io, sono fuffa, sono chiacchiere, insomma, l'importante è che ci sia una guida, una leadership, e questa leadership funzioni in modo competitivo nel rapporto con la maggioranza e col partito di Berlusconi. È così? Ma io in realtà sono, devo dire, mi compiaccio del fatto che finalmente non sarò iscritto a un partito il cui segretario viene eletto col 90% dei voti, che effettivamente è una cosa che mi ha sempre messo un po' in imbarazzo, anche perché poi i fatti dimostravano che quel 90% di consensi non c'era, ma poi in realtà era un modo per coprire delle profonde divisioni di cui però non si discuteva mai alla luce del sole, e cioè non c'era mai l'opportunità per l'iscritto, per il simpatizzante, per il militante di sapere quali erano le differenze all'interno del partito. Io credo che questo sia sicuramente un elemento di grande modernizzazione, finalmente avremo delle linee politiche alternative, potremo parlarne senza averne paura, ma scoprendo che le diversità sono una ricchezza e non, come dire, un problema, ed eventuali, come dire, diversità di vedute potranno essere discusse e democraticamente potremo decidere quale è maggioritaria. Detto questo, io invece sono abbastanza preoccupato, perché mi pare che, come diceva lei nell'introduzione, lo schema sia uno schema che conosciamo ormai da molto tempo. Vede, io penso che la politica sia fatta per governare i paesi e che si faccia politica per fare delle leggi, e che l'obiettivo debba essere per ciascun partito quello banale, molto banale, ma poi mica tanto, di vincere le elezioni. Ecco, io credo che noi dovremmo a questo punto, dopo 20 anni di discussioni tra Veltroni e D'Alema e 20 anni sostanzialmente di sconfitte per il nostro schieramento, per il centro-sinistra, perché a guardare l'Italia dall'estero di questi 20 anni si racconterà dell'Italia di Berlusconi. Allora, io credo che noi dobbiamo avere un'alternativa molto credibile per il 2013. Temo che nessun vecchio schema possa mai vincere nel 2013 con il centrodestra, a meno che noi non riusciamo a tirar fuori una proposta politica veramente innovativa, radicalmente alternativa a quella che è politica ma anche culturale di Berlusconi, e io credo che non riusciremo a farlo se non tiriamo fuori quelle cose che il Partito Democratico aveva promesso e che in realtà ancora non ha mantenuto. Comunque, secondo lei il problema è trovare un leader e un programma e delle idee innovative che, diciamo, siano competitive con Berlusconi in previsione del 2013. Raccontare l'Italia del 2020, del 2025, la visione. Però la forma del partito, la natura del partito, secondo lei deve rimanere questa, cioè un partito con dei confini, con una sorta di suo statuto d'appartenenza, per cui, come dire, ci sono quelli che restano fuori, i radicali stanno fuori, i due partiti comunisti, paracomunisti, che hanno insieme quasi il 7%, stanno fuori a cercare il loro diritto di tribuna contro i quorum elettorali, Di Pietro sta fuori esercitando, diciamo, il suo potere demagogico in concorrenza col PD. Secondo me bisognerebbe cambiare invece pagina e il PD dovrebbe diventare un partito di partiti, cioè un partito che incorpora tutta l'opposizione e che funziona secondo le regole della democrazia diretta, delle primarie, per scegliersi un leader e per scegliersi una linea, ma tenendo tutti dentro, tutti che hanno le loro fondazioni, che hanno i loro centri d'appartenenza, difendono i propri interessi, come è la formula dei partiti all'americana, dove ciascuno è dentro, ha il suo diritto di tribuna perché è dentro un partito, diciamo, fondativo in un sistema bipartitico del sistema politico, e dà il suo contributo e riceve quello che chiede, naturalmente una quota parte di rappresentanza, ma insomma non con il vecchio schema delle alleanze di coalizione, tutti dentro un medesimo partito. Chiara Geloni, è realizzabile questa cosa secondo lei? Non lo so, bisognerebbe anche questa cosa, questo è un genere di cosa che non si può decidere da soli, si decide insieme a chi dovrebbe stare dentro, non è che si può decidere al congresso del PD chi deve stare dentro e chi fuori dal PD. Certo è che all'ordine del giorno del congresso ci dovrebbe essere una discussione, non voglio usare la parola, ma insomma quasi costituente, perché il PD è un partito che a me dà l'impressione di non avere ancora chiaramente deciso delle cose fondamentali, cioè come, perché si sta insieme. E allora in questo senso io mi associo all'ottimismo di Gualtieri e di Scalfarotto circa il fatto che finalmente avremo una discussione matura tra due candidati, nessuno dei quali ha la vittoria in tasca, e sarà una cosa seria, sarà una sfida tra due possibili segretari, perché entrambi hanno il fisico, se saranno questi candidati, per potersi candidare veramente a guidare il partito, non sono candidati di bandiera. Però sono un po' preoccupata perché mi pare che questo genere di sfida porti al formarsi non di un solo schieramento ammucchiata come l'altra volta, ma probabilmente di due schieramenti ammucchiata che saranno attraversati trasversalmente dalle risposte a quelle domande. Per esempio, il Partito Democratico deve essere un partito americano, come dice Giuliano Ferrara, o no? Non lo so se si aggregheranno sulla base di come si risponde a questa domanda. Seconda ipotesi di domanda, per esempio, un esempio tipico. Era bella la seconda, eh? Sì, prego. Il discorso del Lingotto è ancora il punto di partenza su cui costruire il Partito Democratico? Vabbè, ma Veltroni non è Abramo Lincoln, il discorso del Lingotto è un discorso qualunque, siccome, la nuova stagione. Siccome non ha mica detto basta con la segregazione. Mica ho detto io, infatti, che il discorso del Lingotto. Ma no, ma sta la falsa storia del Lingotto, lo spirito del Lingotto è banale, su. Sono d'accordo con lei, Ferrara. Sto dicendo esattamente questo. Certo, per questo mi permetto di interromperla. Sardoni, il punto, secondo me, veramente importante, lo ripeto, è questo: la natura di questo partito. Cioè, voglio dire, se a un'eventuale discussione pubblica c'è Bertinotti o non so chi, o Epifani della CGIL, che fa un forte richiamo alla necessità del collegamento con gli interessi popolari, con le piattaforme, con il movimento dei movimenti, i precari e non so che altro, fa una sua sociologia della crisi di sinistra, il confronto diventa più interessante, il partito diventa più ricco. Infatti loro sono abbastanza d'accordo su questa idea di fare il partito di partiti, di ritrovarsi tutti insieme in un grande contenitore. Però questa ricchezza... Perché, per esempio, scusi Sardoni, Bersani e Franceschini la pensano più o meno allo stesso modo su tutto, sulle lenzuolate, le liberalizzazioni. Ma di che discutono? È una cosa, sono scontro di nomenclature, Veltroni contro D'Alema. Questo è il rischio, così potrebbe essere percepito, Sardoni. Non è percepito, questa è la realtà della cosa. Perché no, Gualtieri in effetti lo nega. Gualtieri lo nega, infatti volevo proprio rispondere a Gualtieri, perché Gualtieri dice una cosa giusta, e cioè che se si profila uno scontro Franceschini, cioè un congresso dall'esito non ancora determinato, questa è una novità positiva, per la prima volta c'è una competizione a viso aperto. quello che volevo dire è che invece anche questa volta, come nei passati 15 anni, la competizione in realtà non sarebbe realmente a viso aperto, perché i competitori sarebbero a livello di nomenclatura, e cioè D'Alema e Veltroni, i competitori veri, e per di più senza mettere la faccia, come si dice, sulla, in questa competizione, perché chiunque di loro poi, se il loro candidato perde, in realtà resta sempre la possibilità di restare lì, di fare kingmaker di qualcun altro, e questo ha un rilievo anche, questo assorbe la questione della linea politica, la mette in secondo piano, e proprio perché non ci sono invece delle differenze di contenuto. Mi faceva molto pensare il fatto che Enrico Letta, nel fare il suo endorsement, dare il suo appoggio a Bersani, ha detto: però attenzione, voglio che ci siano Tito Boeri e Pietro Ichino. Dopodiché Veltroni ha invitato Tito Boeri e Pietro Ichino. Spieghiamoci. Boeri e Ichino sono un economista e un giurista del lavoro di che tendenza liberale, sono quelli del Lingotto, sì, se per tornare a questa cosa, quindi tendenza allo spirito del Lingotto, e quindi sono molto diversi dall'archiviazione del Lingotto, che non è stato il discorso di Abramo Lincoln, però ha avuto almeno politicamente è stato apprezzato ed è stato identificativo di una linea che poi lo stesso Veltroni, per la verità, ha rapidamente perso, tanto che Tito Boeri c'era al Lingotto e poi è sparito, non si è più visto fra i consiglieri di Veltroni in tutta la campagna elettorale, non è esistito da questo punto di vista. Quindi, e però dall'altra parte Veltroni ha invitato esattamente Tito Boeri e Pietro Ichino. Allora uno dice: ma allora, per esempio, su una questione così importante, così cruciale com'è l'economia, queste linee, chi sta da una parte, come sono ricomposte queste persone? Ed ecco che la competizione di nomenclatura rifiorisce e che la questione della leadership si pone nuovamente come un'anomalia, l'anomalia del centrosinistra. Gualtieri, ecco, la cosa che mi veniva in mente prima, così un po' a ruota libera, lei mi scuserà, io sono un improvvisatore, non sono un approfonditore pensoso, almeno non sempre, e non su tutti i temi. La questione è questa: un bel dibattito dentro il partito, dentro il congresso, il tema della legalità così come lo pone Di Pietro, che è un tema che si presta a uno sfruttamento demagogico e addirittura a un condizionamento che rasenta il ricatto nei rapporti politici tra formazioni competitive. Invece dentro uno stesso partito, guardi, a me non piace Di Pietro, quindi se io dico questo lo dico veramente perché è un'idea politica, non perché sia la mia idea, la mia preferenza. E poi Pannella, tutti lo possono criticare, effettivamente, insomma, con quella stella gialla mi mette molta malinconia e mi fa anche un po' irritare, però è stato un grande protagonista, i diritti, dentro invece che fuori, ma non è meglio, non è più significativo, non è più interessante? Ma guardi, io non so se Franceschini farà suo questo endorsement un po' ingombrante di Veltroni. Quel che è certo è che se lo facesse, probabilmente la linea della sua piattaforma sarebbe esattamente questa, perché non c'è dubbio che la cosiddetta linea del Lingotto, insomma, la linea bipartitica a cui tendeva, del modello del partito all'americana, a cui tendeva la segreteria Veltroni e il suo gruppo dirigente, che ora mi sembra in prima fila nel sostenere la candidatura, anzi nell'incitare Franceschini a candidarsi, penso a Morando, punta esattamente a questo, cioè punta a un partito che in realtà è un comitato elettorale in cui dentro ci sono vari partiti, di cui ad esempio il sì al referendum, che appunto è un tema abbastanza discriminante, che Franceschini sostiene con molta convinzione e che molti dei cosiddetti veltroniani, ora diciamo così per usare questo termine, che concepiscono proprio come uno strumento per arrivare a questo modello bipartitico. Certo. Ecco, io penso che l'altra linea sia esattamente opposta, io la preferisco, e sia invece una linea di un partito vero, diciamo, quindi non di un cartello elettorale, ma di un partito. Ma non è meglio, scusi, non è una provocazione, tra l'altro adesso dobbiamo dare la pubblicità e quindi, ma allora se è così, non è meglio riferirsi alle vere potenze sociali che fanno parte di una grande tradizione, fare un partito laburista, insomma, dire va bene, non siamo ovviamente più comunisti, non siamo neanche socialisti nel senso tradizionale del termine, ma insomma, allora siamo con i socialisti europei, facciamo una grande formazione di tipo socialdemocratico, dove ovviamente. Allora, no, io non sono d'accordo, no, ma no. Per un motivo molto semplice, perché intanto bisognerebbe distinguere tra socialismo e socialdemocrazia, perché socialdemocrazia non vuol dire socialismo democratico, ma vuol dire democrazia sociale. Sì. Questa è una notizia spesso ignorata nel dibattito italiano: l'SPD non è un partito socialista, ma è un partito che, tradotto in italiano, il suo nome si dovrebbe chiamare Partito Democratico Sociale. Sì. Ma Detto questo, è evidente che invece l'idea di un incontro tra riformismi diversi, quello di matrice cattolico-democratica, quello di matrice socialista, che poi in Italia è prevalentemente post-comunista, invece configura un modello di partito, un tipo di partito che secondo me è più moderno rispetto alle sfide del XXI secolo, proprio perché non è un partito unicamente laburista, ma questo non significa che deve diventare un partito che ingloba Pannella e Di Pietro. Va bene, sono due cose va molto bene. Diverse. Benissimo. Giorgio da Bologna. Giorgio. Buona giornata. Ci dia un contributo. Senta. Buona giornata. Allora, io sono un elettore del PD, devo dire, nonostante la presenza di D'Alema. Detto questo, volevo dire che Veltroni ha fatto cosa buona e giusta a correre da solo, ma ha commesso un errore strategico nello sposare Di Pietro, perché l'uomo è abbastanza inaffidabile. Ma che il PD deve e dovrebbe, sempre secondo me, sempre correre da solo, perché, e qui è mia opinione, Berlusconi, diciamo a breve, diciamo entro l'anno, cercherà elezioni anticipate, ma facendo correre il PDL da solo. Insomma, detta come in altri termini, si sta cercando la madre di tutte le elezioni, ovvero l'uomo ha subito sicuramente uno stop sulla sua immagine e il condizionamento leghista incomincia a diventare troppo forte. Il referendum non serve a niente perché la legge elettorale promuove la coalizione, ma non dice che la coalizione deve essere fatta da due partiti. Se la coalizione di Berlusconi è fatta solo dal partito di Berlusconi, si assisterà alla convergenza dei voti da una parte su Berlusconi e dall'altra sul PD. Bene, molto politologico, molto interessante. Un altro bolognese, Elia. Sì, buongiorno. Buongiorno Ferrara. No, io ho un intervento diverso da quello che mi ha preceduto. Sono sempre di Bologna, però dico una cosa opposta. Credo che queste siano state le ultime elezioni dove tanta gente come me e parecchie persone che conosco voteranno il PD. Nel senso che siamo stanchissimi di sentire tutte queste, tra virgolette, boiate, da Legnani, Veltroniani, basta, veramente basta. Gli altri fanno una politica brutta, che a noi non piace, di destra, tante belle cose, però vanno avanti, anche se è brutto dirlo, per me non è giusto farlo. Noi, non facciamo niente, facciamo guerre tra fratelli, tra sorelle, tra cugini, tra zii. Allora lamento, io dico, nobile lamento il suo, comprensibile. Come dice lei, secondo me è giustissimo, prendiamo 10 cose che alla gente interessano veramente e che interessano alla nazione, immigrazione e tutte queste cose qua. 10 punti, non di più, forse neanche 5, chiari, al congresso, devono fare un congresso, bene, che vengano fuori 5 idee di bene. Sinistra. Spostiamoci a Genova, grazie Elia. Vincenzo da Genova. Buongiorno. Giorno. Senta, le faccio una premessa, io ho fatto la terza media, ma non credo ci voglia un genio per capire che D'Alema ha consegnato le chiavi dell'Italia a Berlusconi ai tempi della bicamerale e Veltroni fondando un partito che doveva essere un partito nuovo, non il solito miscuglio, perché siamo sempre lì. Cosa c'entra Rutelli e Rosi Bindi con la sinistra? Qui si fanno sempre queste cose, dopo, se si dovesse andare un domani al governo, nascerebbero i soliti problemi. E in questo modo anche Veltroni ha consegnato le chiavi dell'Italia a Berlusconi. Io dico questo. Quando è che cambieranno le cose, che si farà un partito di sinistra moderata, ma di sinistra, in modo che si sta all'opposizione 10, 15 anni, 20, ma quando si va a governare... Questo può già capitare, Vincenzo, potrebbe già capitare da adesso, se le cose non cambiano. Comunque, bene, un altro nobile lamento con una punta di depressione e di odio, diciamo, verso tu, di odio, scherzo naturalmente, di insofferenza verso tutti. Giovanni dalla provincia di Catanzaro e poi torniamo in studio con i nostri ospiti. Giovanni. Giovanni dalla Lamezia, vi do il saluto a tutti quanti. Io Lamezia sono Termia. sì, la Lamezia Terme, dell'opposto parere dell'ascoltatore di prima. Io penso che una delle cose ottime che aveva fatto Romano Prodi era quella di fare una coalizione per vincere, perché sennò qui si fanno sempre i soliti lamenti. Io sono perfettamente d'accordo con lei, dottor Ferrari, quando lei va a dire sia i comunisti sia il PD che bisogna fare una coalizione in cui è meglio stare al governo e fare e prendere delle decisioni che non fare i soliti giochini che poi vince Berlusconi e ci lamentiamo tutti. Catalano, meglio stare al governo che stare all'opposizione, molto semplice e assolutamente condivisibile. Opportuno, perché se no qua noi ci lamentiamo sempre e poi alla fine sì. Non contiamo niente a nessuno, stiamo dando in mano il governo alla destra, quindi dobbiamo essere coerenti. Grazie a Giovanni della Lamezia Terme. Scalfarotto, c'è l'ipotesi seria di una terza via, di una terza candidatura? Voglio che ci capiamo bene. Le forze non sono ingenti, le idee sono tante, lei è collegato con tutta una rete prevalentemente giovanile, ma insomma poi di gente matura che vive nelle professioni, nei media, Luca Sofri, altri, gente che fa la radio, che fa la televisione, e che dice no, ci vuole una terza soluzione. Quale può essere questa soluzione? E che non sia di pura testimonianza, cioè che non ribadisca, anche se poi la testimonianza ha una sua importanza, no? No, io credo che la terza soluzione ci dovrebbe essere, ci debba essere, per un motivo molto semplice. Riguardi Ferrara, lei ha descritto un partito che a me convince invece moltissimo. Io non penso di fare delle coalizioni per stare al governo a tutti i costi, come diceva l'ascoltatore, per prendere decisioni che poi non si riescono a prendere, perché una coalizione troppo eterogenea non decide alcunché, anzi implode e cade. Io credo che si debba fare un partito esattamente che comprenda tutte le anime del riformismo italiano, forse non so se si riesce ad arrivare ai comunisti, ma io ho fatto una serie di dibattiti con Sinistra e Libertà durante questa campagna elettorale e mi chiedevo per quale motivo io e la Monica Frassoni fossimo in due liste diverse, per dire. E credo che questo partito però, per nascere, debba essere fatto anche da persone che hanno una sensibilità politica e, se vuole, anche una contemporaneità, come dico io, cioè che vivano in un mondo che non è quello di 25 anni fa, nel senso che il Partito Democratico è stato disegnato sulla carta molto bene, ma poi noi lo abbiamo implementato attraverso persone la cui cultura politica è una cultura politica completamente diverse, che tende alla fine a ricadere in schemi politici che sono quelli precedenti. Noi abbiamo cambiato il contenitore, ma il contenuto è rimasto rigorosamente lo stesso. Allora bisogna, io credo, innanzitutto sui contenuti andare a trovare delle sintesi e a dire delle cose nuove, come diceva qualche ascoltatore, perché noi ci siamo lacerati su temi come per esempio i temi etici, il testamento biologico e altre cose, ma queste lacerazioni non sono state mai lacerazioni del corpo del partito, sono stati esponenti del partito che hanno dichiarato cose come dire antitetiche, ma noi non abbiamo mai chiesto ai nostri elettori, ai nostri iscritti, che cosa pensassero del testamento biologico. Ecco, il congresso serve a far quello, serve a dire per esempio che su certi temi questo paese è assai più avanti di come la politica lo disegni, secondo me, e che esiste un problema di visione di questo paese, perché chi lo guarda con occhiali che sono, a mio avviso, occhiali di altri tempi. Beh, attenti alla candidatura Marino però, perché si prospetta molto noiosa, molto monotematica. Il mio Francesco Cundari ha detto, dice, vabbè, allora vuol dire che siamo già in sala operatoria se si candida Marino segretario del PD. E poi dice, non si sa se ha sciolto la prognosi ancora. Sì. Vabbè, sono cattiverie su mie verso Marino, che invece è una persona di specchiata integrità e molto interessante, insomma un grande medico, eccetera. Chiedo scusa, però io ogni tanto mollo i freni, divento disinibito, non so perché. Chiara Geloni, sì. La questione cattolica, adesso noi dobbiamo ovviamente, siccome siamo persone di mondo, negare che esista una specifica questione cattolica nel PD. Le culture si contaminano, si integrano, ciascuno dice quello che pensa, naturalmente i cattolici hanno mica poco, hanno la fede in Gesù Cristo, insomma è un deposito di cultura, di spiritualità, del quale fanno l'uso che credono, e poi ovviamente si vota maggioranza e minoranza, e poi c'è la libertà di coscienza. Questo è normale, è una procedura comprensibilissima. Eppure c'è qualcosa di irrisolto. Che cos'è? Lei che dirige insieme con Stefano Menichini un giornale che è un giornale evidentemente di cultura cattolica, l'ex giornale della Margherita Europa, ma che vive nel Partito Democratico a tutti gli effetti e a tutti i titoli. Cosa c'è di irrisolto da questo punto di vista? Ma non lo so, si mescolano molte cose, tante volte dietro alle questioni di, diciamo, di valore o di coscienza, perché spesso, e questa è la cosa che a me, diciamo, turba un po' di più, che trovo più sgradevole, si fanno delle battaglie politiche con la bandiera della coscienza, si fanno delle battaglie per il peso che una componente deve avere. Mi riferisco sia alle componenti laiche che a quelle cattoliche, che a quelle più laiche di tutte che a quelle più cattoliche di tutte. E si fanno delle in questi anni, in questi primi mesi di vita del Partito Democratico, si è fatta spesso politica, si è fatto spesso congresso, si è fatto spesso posizionamento interno su questioni che riguardavano i cosiddetti valori non negoziabili o comunque la vita civile. A lei va bene, per esempio, questo compromesso che si è stabilito per cui in Europa, a Strasburgo, la domanda poi la farò anche a Gualtieri, non si va nel Partito Socialista Europeo, sic et simpliciter, ma si riforma il Partito Socialista Europeo che diventa alleanza dei socialisti e dei democratici in Europa, no. E allora... Guardi Ferrara, io... Le va bene? Sì. Assolutamente sì, i socialisti europei hanno vissuto un confronto interno rispetto a quello che stava succedendo in Italia in questi anni. Io sono stata al congresso di Oporto, ha vinto una linea, diciamo la linea di Rasmussen, che era una linea di grandissima attenzione a quello che stava arrivando da Fassino e da Prodi, che sono andati a quel congresso a raccontare l'esperienza italiana. Gli italiani in questi anni hanno chiesto ai socialisti europei di ripetere e di provare ad applicare anche a se stessi l'esperienza di apertura e di confronto con altri riformismi che era in corso in Italia. I socialisti europei hanno accettato tutte le richieste italiane, tutte, e hanno accettato di aprire nel Parlamento europeo un processo che è semplicemente lo stesso processo che si è aperto nel Parlamento italiano con la Costituzione, prima dei gruppi federati di DS e Margherita e poi dei gruppi dell'Ulivo. Sì, sì. Che vabbè, sono adesso non entriamo in dettaglio, però Rutelli ha messo, onorevole Gualtieri, ha voluto che fosse messa a verbale il suo dissenso. Secondo lui alla fine si muore socialisti, cioè insomma l'appiattimento ci sarà. Lei cosa pensa, Gualtieri? No, io penso che stiamo realizzando, io sono qui proprio a Bruxelles, sta per iniziare la riunione del gruppo dei neoeletti del Partito Democratico, proprio su questo tema stiamo realizzando veramente una cosa molto importante, cioè stiamo esportando in Europa l'esperienza del Partito Democratico al punto che i socialisti europei hanno concordato con noi di dare vita a un nuovo gruppo parlamentare, appunto, dei socialisti e dei democratici europei, una cosa rilevantissima sulla quale c'è una larga unità del gruppo parlamentare. Ci sono naturalmente accentuazioni diverse quanto al grado di autonomia che la componente democratica di questo gruppo dovrà avere, quanto allo statuto, ma insomma procederemo su questa linea che è una linea davvero innovativa e importante. Vedo qui dagli schermi che Obama dice c'è poca differenza tra i due sfidanti, Mousavi e Ahmadinejad. Sì, magari tra di loro c'è poca differenza, ma tra la gente che manifesta e coloro che gli sparano una differenza c'è, no? Obama dovrebbe forse tenerne conto, ma questo non c'entra niente con cui stiamo discutendo. Alessandra Sardoni ha scritto un libro che non ho ancora letto, ma che presenteremo lunedì, lo leggo nel weekend, sul gruppo dirigente del Partito Democratico, ed è un libro di cui vorremmo sentire le ragioni. Cioè, c'è una bella foto di D'Alema vista da dietro, di Alessia Occhialini in copertina, e poi c'è questo racconto pieno di varianti, di incursioni, ma alla fine la sostanza qual è? Perché D'Alema è il grande ingombro? L'abbiamo visto anche nelle telefonate, no? Chiamano e dicono non possono voto democratico nonostante D'Alema. Ci sono mille che direbbero voto democratico solo perché c'è D'Alema. Cos'è questo mistero politologico di questo D'Alema? Questo D'Alema è la figura dominante, anche la figura dominante del libro, nonostante il libro contenga le storie di tutti i leader, o meglio di quelli che sono stati candidati premier o premier, il che fa una differenza, cioè certo, che hanno avuto questa possibilità anche soltanto di competere, come è stato nel caso di Rutelli, comunque di correre per il governo del paese. D'Alema è stato leader, è stato premier in un modo assolutamente anomalo, un modo che lo ha bruciato, perché è andato al governo nel 98 senza passare per le elezioni, con il trauma del complotto che adesso qui non ci interessa interessa sapere come è andato, chi era la colpa. Nel libro c'è anche il racconto di questo, ma insomma non è il punto. La sostanza è che D'Alema non si è presentato mai alla fine agli elettori per raccogliere il consenso sufficiente per andare al governo, e quindi la sua figura è diventata un'anomalia, perché lui ha tutta l'iconografia d'alemiana, lo dice, la figura del leader, è forse l'unico che ha anche una dose di carisma, un rapporto con il suo, con una parte del suo partito, con il suo partito forte, un legame forte, e però nonostante questo è passato rapidamente, troppo rapidamente, al ruolo di kingmaker eterno, di demiurgo. Già aveva questa attitudine, perché è lui che ha creato la figura di Prodi nel 96, tutto sommato, insieme ad Andreatta, insieme alla gran voglia di Prodi, però comunque l'attitudine demiurgica di D'Alema già si era dispiegata ed è diventata la grande anomalia, perché non ha avuto più altre correzioni vere, non ha avuto mai la vera sfida da parte di Veltroni, e quindi questa figura è sicuramente una delle intelligenze migliori che ci sono, è pieno di contenuti, è colto, eccetera, ma tutto questo non si vede, non è un leader, è, diciamo, la figura dominante di quello che nel libro definisco un patto di sindacato, ovvero la forma oligarchica che è tipica purtroppo delle classi dirigenti italiane, ed è purtroppo la forma, a mio avviso, purtroppo, naturalmente è un'opinione, la forma che ha preso il gruppo dirigente del Partito Democratico. Onorevole Gualtieri, facciamo un po' di antropologia politica o di geografia politica. Tutti emiliani, adesso abbiamo parlato di D'Alema che non è emiliano, però Prodi, che naturalmente un suo ruolo l'ha avuto in tutti questi anni, e poi adesso Franceschini è di Ferrara e Bersani è di Piacenza, che poi in realtà è Lombardia, Piacenza, allora, o Emilia, come sono ignorante, Emilia. Bene, però è un po' lombarda come cultura, come atteggiamento, però sono sempre Emilia. Allora, quello che io dico è che cosa, perché il modello emiliano è aggredito, la Lega è il secondo partito della Reggio Emilia, Sassuolo, insomma il modello emiliano è anche un po' corroso, no? Morsicato da invasioni, invasioncelle protestatarie, ci fu il caso Guazzaloca, adesso vedremo come va a finire a Bologna, ma è aggredito. Eppure adesso dà proprio il cuore del... sono due emiliani. Perché? Come? La cosa le suggerisce qualcosa? Le cooperative, l'insediamento sociale, gli interessi rappresentati, il riformismo, non so, com'è la faccenda? Ma io ora non enfatizzerei troppo questo dato, ma sicuramente... insomma, l'Emilia-Romagna è terra di una robuste tradizioni riformiste, democratiche e popolari, e quindi evidentemente Bersani e Franceschini le incarnano, le interpretano. Franceschini è legato all'area Zaccagnini, viene da quella costola progressista della Democrazia Cristiana. Romano Prodi è un altro filone, diciamo così, legato appunto ad Andreatta, di quel riformismo bolognese del mulino che nasce ai tempi del centrosinistra, e Bersani è proprio l'espressione invece, diciamo così, dell'Emilia Rossa, del riformismo peculiare del comunismo italiano che in Emilia si è dispiegato in misura molto, molto rilevante e molto forte. Quindi sono espressione sicuramente di un patrimonio, il forte del principale patrimonio quanto a insediamento del progressismo italiano, e quindi in questo senso non bisogna stupirsi. Poi quanto alla debolezza di quel modello, io insomma sarei prudente, visto che insomma soprattutto in Emilia ci apprestiamo, penso, a vincere Bologna, le elezioni comunque, insomma siamo, è la regione dove il Partito Democratico è più forte. Sì, certo, no, io parlavo di un indebolimento relativo. Franco da Como e poi chiudiamo. Franco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono d'accordo con lei, Ferrara, quando sostiene la necessità di fare un partito all'americana. Il problema sono gli uomini, perché se abbiamo sempre i vari Pecoraro Scagno, Bertinotti, insomma le ambizioni personali, adesso non voglio demonizzare nessuno, comunque le ambizioni personali di ciascuno di questi tanti leaderini della sinistra, del centrosinistra, che se non trovano soddisfazione della loro ambizione di potere, ecco, se ne vanno, fondano un partitello e vivono di quella rendita, di quel 3-4-5% che può dare, insomma non c'è vocazione maggioritaria. Io sono un elettore di centrosinistra e vedo che comunque a destra non mi piace Berlusconi, lo detesto, ma vedo che guarda in avanti, cioè è riuscito a riunire tradizioni diverse con il collante dell'anticomunismo che è becero, vecchio, stantio, prima c'era quello, adesso forse ci sarà qualcos'altro, domani ci sarà Fini che c'è un'idea diversa, però ecco, c'è un'idea maggioritaria a destra, quello che a sinistra non c'è, e su questo siamo fortemente in ritardo, ecco, questo. Un commento, Chiara Geloni, finale su queste parole? Sono d'accordo, manca proprio, anche dentro il Partito Democratico, la capacità di pensarsi come un partito grande. E mi riferisco anche alle cose che dicevamo prima sulla presenza dei cattolici, il dibattito tra laici e cattolici. Ognuno è stato in questi primi mesi nel Partito Democratico come una componente che deve misurarsi e cercare di prevalere sulle altre componenti. Nessuno, nemmeno chi l'ha guidato il partito spesso, insomma mi riferisco non alle singole persone ma ai gruppi, sì, dirigenti, è riuscito più di tanto a pensare al partito come un luogo dove poi ovviamente le differenze si mescolano, maturano cose nuove. Ognuno ha difeso la sua posizione, i suoi amici, le sue idee, nobilmente, ma nessuno ha pensato mai al partito come a un partito grande. Bene, allora abbiamo fatto la nostra chiacchierata, vi ringrazio, ringrazio Oscar Farotto e gli auguro buon lavoro, speriamo per lui e per i suoi amici che nasca effettivamente una terza soluzione, una terza candidatura. Grazie a Roberto Gualtieri che è a Bruxelles e comincia la sua vita di eurodeputato, Alessandra Sardoni che venderà un sacco di copie del suo libro Il fantasma del leader, pubblicato da Marsilio, e a Chiara Geloni. Grazie. Tutti voi. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Domani, baci.